Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. E si inizia ad andare nell'aula 51-50-49, quel piano verde lì. Avete in mente? Sì! Sembra inutile dirvelo, ma lo devo dire per forza. È vietato l'uso di alcolici o di sostanze stupefacenti, sono vietati atti di vandalismo di vario genere. È comunque una protesta pacifica. Vi ricordiamo, gli alunni che non sono di questa scuola non possono entrare. All together now. Non voglio sembrare persona schiava dei propri pregiudizi, ma mi sembra di essere nell'anno 1972, quando esattamente le stesse cose sentivo nel mio liceo. Ora potrei passare per passatista, scusate il gioco di parole, per persona che va contro il flusso che oggi va a dare comunque un segno positivo ai ragazzi che hanno una coscienza politica, che occupano le scuole. Io la penso diversamente, io penso che sia un rituale fiacco, antico, desueto, ammuffito. Facevano i vostri nonni o ragazzi che voi occupate le scuole la stessa identica cosa, voi lo fate per imitazione, lo fate casualmente proprio in coincidenza del ponte che va dall'Immacolata a Natale, che guarda caso è il momento che mette tutti d'accordo, contenti i professori che se ne stanno a casa pagati e possono fare gli acquisti natalizi, contenti i genitori che tutto sommato vi hanno fuori dalle scatole giorno e notte, contenti voi perché avete una grande occasione per fare bisboccia, anche perché ancora non capisco quali siano le istanze per cui le scuole siano occupate, cosa cambierà poi secondo voi, dato che nulla è cambiato per occupazioni negli ultimi 40 anni. Comunque fate quello che volete, avete massima libertà di occupare. C'è un dato però che sulle occupazioni, di cui nessuno ha parlato in maniera ufficiale, o perlomeno su organi di informazione nazionali. Quando i ragazzi perfettamente in grado e in coscienza di prendere le loro decisioni e quindi prendersi anche le responsabilità di un atto illegale, di atti di vandalismo, di devastazione all'interno delle scuole, occupano le scuole, comunque in tutte le scuole italiane bisogna tenere conto, ci sono anche ragazzi disabili. Ragazzi disabili che vanno a scuola e naturalmente non andare con i debiti supporti di persone che si occupano di loro, sia i disabili di tipo, diciamo, legate alla loro possibilità di muoversi, quindi quelli in carrozzina, sia i ciechi, sia i sordi, sia quelli che hanno una disabilità di tipo psichico, che non possono andare a scuola se non hanno una persona che li accompagni, che lavori sulle loro autonomie. Per un ragazzo disabile, cari occupanti, un vostro coetaneo disabile, la vita è un po' differente. Non può naturalmente rimanere a dormire con voi e occupare la scuola, perché da solo non può svolgere alcune funzioni, ci vorrebbe qualcuno che lo accompagna, ma voi non volete che entrino dentro le scuole gli insegnanti di sostegno o gli accompagnatori dei ragazzi disabili. Quindi in questo momento di stupenda e stupefacente democrazia, che come una sorta di liturgia scolastica va avanti da 40 anni, si chiama occupazione scolastica, che penso che in Europa sia tollerata soltanto in Italia oramai, ecco, i ragazzi, i vostri coetanei disabili, quelli che hanno un deficit, quelli che hanno un problema, quelli che sono immobilizzati su una sedia a rotelle, non hanno la possibilità di frequentare la scuola. Voi dite, vabbè, se ne staranno a casa. Certo, ci sono dei ragazzi per cui la mattina a scuola è l'unica occasione che hanno per stare in mezzo alla gente. L'alternativa per loro è rimanere a casa, chiusi dentro casa. Oppure il momento scolastico è per voi un momento di socializzazione, di presa di coscienza civile, oltre che di studio, per loro non è la stessa cosa se non hanno gli adeguati supporti. C'è una scuola, ma succede spessissimo, oggi prendiamo questo esempio perché lo troviamo eclatante, esattamente ci riferiamo a un liceo di Frascati, che i ragazzi hanno occupato, la seconda volta che occupano in giro di 3 settimane, accadde comunque anche 3 settimane fa, questa scuola è frequentata, guarda caso, da 50 ragazzi disabili, che in quella scuola vanno non soltanto per frequentare la scuola, ma per fare dei programmi di abilitazione in accordo con il comune, quindi per loro indispensabili a vivere, fa parte della loro vita. Gli occupanti non li vogliono dentro, perlomeno hanno detto ai genitori, sì, se volete fateli entrare, poi mi firmate un foglio che vi prendete voi la responsabilità, capito? Di decine di ragazzi autistici o con problemi di autonomia totale, capito? Perché non vogliamo che entrino gli educatori e gli insegnanti. Ha diritto di libera espressione del proprio pensiero anche attraverso un sistema, diciamo, forzato ai limiti della legalità come l'occupazione, un essere umano che non ha il grado di civilizzazione di considerare anche il suo coetaneo disabile? Questa è la domanda di oggi. 800 24 0024. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Melog. Cronache meridiane. Siamo qui nella scuola riuniti per fare l'occupazione al liceo scientifico di Sant'Antimo e vediamo che i ragazzi sono molto incentivati a fare questa occupazione perché le piace, si fa burdelle, ma soprattutto dobbiamo risolvere delle situazioni. Siamo vai però. Abbiamo comunicato poi le commissioni di pulizia, servizio d'ordine, comunicazione e attività. Il servizio d'ordine sarà un organo fondamentale all'interno della scuola per diversi motivi. Per quanto riguarda soprattutto il rispetto del regolamento, ora il regolamento lo fotocopieremo e ve lo faremo avere, l'appenderemo nelle scuole, eccetera. Raga, sono emozionato. Queste sono cronache di occupazione da tutta Italia. Naturalmente oggi le possiamo ascoltare e vedere liberamente perché poi le postano su YouTube, ma non voglio ironizzare sull'occupazione. Il tema non è oggi è giusto o non è giusto occupare. Il tema è giusto occupare lasciando a casa i ragazzi disabili che hanno il diritto di frequentare la scuola, un diritto sancito, un diritto per cui siamo orgogliosi verso tutto il resto d'Europa, il diritto all'inclusione. Perché non devono essere inclusi durante il periodo dell'occupazione? Perché non hanno anche loro la possibilità comunque di seguire un programma durante quei giorni, per non essere tenuti fuori? Perché chi occupa oggi non pensa che parte dei loro compagni debba rimanere fuori? Perché non si trova una maniera, dando per buono il fatto che l'occupazione è lecita, controllata, fa parte di una giusta e libera espressione, che gli atti di vandalismo sono casi isolati? Vorrei che da tutta Italia però le persone che mi ascoltano mi illuminassero su questo problema. Avete un figlio disabile, avete esperienza scolastica, vi è mai venuto in mente il fatto che quando i ragazzi occupano gli altri ragazzi, quelli un po' diversi rispetto alla norma, se ne debbano stare a casa? E questo vi pare giusto? 800240024. L'istituto di cui parliamo è il Maffeo Pantaleoni di Frascati, istituto con indirizzo sociale. Sono andato a vedere il sito di questo istituto, anche degli ottimi e interessanti programmi di abilitazione per ragazzi disabili, tanto che ce ne stanno una cinquantina. Grazie a Orlando, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, grazie a Orlando è una madre di un ragazzo disabile che frequenta l'istituto Maffeo Pantaleoni di Frascati. Ci descrive qual è la situazione e qual è, diciamo, la storia per cui i vostri ragazzi oggi se ne stanno a casa, ieri se ne sono stati a casa, settimane fa se ne sono stati a casa. Allora, guardi, il Maffeo Pantaleoni, diciamo, è famoso per le occupazioni ricorrenti, mi dicono da 10 anni a questa parte. È anche una scuola molto aperta all'inclusione. L'inclusione ovviamente viene meno in queste situazioni perché i nostri ragazzi, come ha già spiegato lei in maniera molto carina, hanno bisogno di essere supportati da degli operatori. No, non è carina, signora, vede nella mia esperienza personale, anche io ho un figlio disabile, quindi so di cosa si tratta. Quindi ecco perché è stato così efficiente nella sua descrizione dei bisogni dei nostri ragazzi, perché anche loro, cioè, al di là della loro diversità, hanno dei sentimenti, hanno delle necessità, hanno dei desideri e vogliono partecipare come possono alla vita degli altri ragazzi. Ma è vero, sono 50 disabili in quella scuola? Sono 65. Ah, 65. Sì, 65. Che tipo di disabilità? Guardi, 5 sono motori, tra i quali c'è anche mio figlio. Sì. E poi ci sono disabilità di autistici, down, ritardi cognitivi, insomma abbiamo una diversa... campionatura di disabilità. Lo dico perché ci ascolta, per questi 60 disabili, sono 60 quindi non 50, sono disabili dell'area psichico-relazionale, quindi la persona di supporto equivale al cane da guida per il cieco, alla carrozzina per il disabile motorio. Insomma, se non c'è una persona accanto a loro non possono essere lasciati da soli in una scuola, perlomeno la maggior parte di loro. Quindi impedire l'entrata del loro accompagnatore è come dire a una persona sulla carrozzina: entra con le tue gambe, o sbaglio? Esatto, Esatto, no, assolutamente. Tra l'altro questi ragazzi, con l'incoscienza dei loro anni, si sono barricati dentro, chiusi da catene, e hanno barricato le porte con banche e quant'altro, che disgraziatamente qualcuno sta poco bene all'interno, prima che si possa intervenire per prestare soccorso, passano dei minuti che potrebbero essere preziosi. Ma al di là di questo, è oggettivamente impedito l'accesso a un ragazzo con disabilità. Quindi questi motori. 65 ragazzi... È stata tentata una negoziazione con i padroni della scuola in questi giorni? Tra l'altro, quello che a noi ha fatto arrabbiare molto questa volta è che era stata data dalla dirigente l'ok per l'autogestione, o come viene chiamata adesso, per la settimana dello studente. Quindi dove potevano essere... Scusi, ma la settimana dello studente prevede che si chiudano con i catenacci e le catene la scuola? No, appunto, era stata data questa apertura dalla dirigente, nonostante il tentativo di occupazione già fatto circa 3 settimane fa, un tentativo di allagamento della scuola. Quindi sono stati fatti dei danni, è vero, all'interno della struttura? Assolutamente, ogni anno alla Massaia Pantaleoni vengono fatti migliaia di euro di danni. Noi ci limitiamo a, abbiamo sentito tutte le persone che potranno darci le risposte, non avendo avuto risposte di risponditori, ci limitiamo a denunciare il fatto. Poi se qualcuno vorrà prendere abbiamo cercato anche in qualche maniera la dirigente, non avendo il suo cellulare privato, se lei è in ascolto sa benissimo che la cerchiamo e ci piacerebbe avere il suo parere. Il numero è 800240024, anche per lei o anche per i ragazzi, se là dentro ci ascoltano, dubito che ascoltino Radio 24. Noi abbiamo ampia possibilità di far parlare tutti, non vogliamo tenere fuori nessuno, però ci sembra singolare che in questo momento esista un problema così grosso, 65 ragazzi disabili, per cui è fondamentale comunque, perché fanno parte di un programma in cui è coinvolto anche il comune, mi pare, all'interno della scuola, questi ragazzi. Sì, è un comune molto sensibile alla disabilità che organizza diversi stage anche lavorativi, perché è una scuola che poi prepara anche al lavoro. Quindi soldi pubblici comunque sono investiti, finalmente una volta tanto per una buona causa, questi ragazzi stanno lavorando per la loro autonomia all'interno della scuola, per loro non è andare a scuola semplicemente, passare una mattinata. È un momento di condivisione con i coetanei, spesso l'unico momento di condivisione con i coetanei che hanno. E che gli viene negato anche questo. Ecco, chi di voi ha parlato con gli occupanti, visto che questo momento... Io ho parlato insieme anche a un'altra mamma ieri e abbiamo fatto presente questa cosa, che i nostri figli, tra l'altro c'era una ragazza ieri, non dico il nome perché ovviamente è una ragazza minorenne, anche lei disabile motoria, che frillava che voleva entrare, ma sono stati tutti quanti sordi. Quando le nostre richieste di un chiarimento, il perché fosse a loro preclusa la possibilità, perché la buona scuola, loro parlano di buona scuola, si riempiono la bocca con questo vocabolo, e la buona scuola deve essere una buona scuola per tutti, se buona vuol dire buona nel vero senso del termine. E quando questa ragazza spiegava da sotto fatemi entrare subito, loro non hanno trovato altro modo di rispondere che chiudere le finestre. Quindi diciamo che la coscienza civile e politica di questi occupanti non ha un grado di cognizione di quello che sia l'esistenza di propri coetanei disabili. Fanno politica, reclamano diritti, però considerano che questi diritti valgono soltanto per le persone normodotate come loro, gli altri non devono esistere. Questo è un dato di fatto, fino a che qualcuno non me lo smentisce. Un attimo, una telefonata. Gian Domenico, buongiorno. Sì, buongiorno. No, io volevo solo intervenire perché sono genitore di una bambina disabile autistica. Dove? Lei non frequenta ancora in che città? Elementari. In che città? A Roma. Sì. Lei a scuola, se non fosse per gli accompagnatori, non potrebbe assolutamente fare nulla. Naturale, perché comunque è autistica e quindi da sola non può avere autonomia, questo è normale. Non ha autonomia e se dovesse andare a scuola da sola senza queste persone che la seguono non potrebbe fare nulla. Non sarebbe autistica, purtroppo. Magari fosse possibile. Sì, ecco. Ma dato il dato di fatto, cosa accade nella sua scuola quando ci sono... Una scuola elementare non credo ci sono occupazioni, ma ci sono assemblee. No. Ci sono... Allora, devo dire che io ho avuto qualche problemino perché all'inizio della scuola ci sono stati problemi con... i maestri di sostegno. E vabbè, questo è un altro problema però. E abbiamo... diciamo che quando c'è qualche problema di assemblee la bambina sta a casa. Questo è normale. Domani c'è un'assemblea alla mia scuola e mio figlio sta a casa. In caso del genere, mia figlia sarebbe privata del suo sacrosanto diritto all'istruzione e soprattutto alla relazione con compagni di scuola, perché comunque la bambina quando va a scuola si relaziona con altri bambini e cerca quasi di comportarsi come una bambina normale, comunque agli amichetti. Mi immagino una cosa del genere sarebbe veramente disastrosa. Allora diciamo, è un altro problema nel problema generale. Oggi parliamo di occupazioni, parliamo di una presa di possesso della scuola da parte degli studenti. Non so quanto autorizzata, non può essere autorizzata una presa violenta alla scuola, non sono autorizzati i catenacci, non sono autorizzato l'impedire ad altri ragazzi disabili di frequentare la stessa scuola, ma visto che nessuno si è mosso, nessuno si muove, non lo raccontiamo. Il problema che ci dice Gian Domenico è che in effetti un disabile a scuola deve subire più degli altri, mentre per gli altri è una giornata di passeggiata quando c'è l'assemblea sindacale, il disabile viene avvertito la sera prima, tenetelo a casa che oggi per lui non c'è trippa per gatti. Ci sentiamo tra un istante. Melog, cronache meridiane. So che questa mattina c'è massima mobilitazione per gli studenti del Virgilio, scuola strafighetta romana che è occupata da 3 settimane, che occupa le pagine di tutti i giornali. Certo, quei ragazzi, poverini, meritano attenzione. Sono 3 settimane, qualcuno cattivo dice che le vuole sgomberare, non si è mai detto. Di 65 disabili di Frascati pare non importi molto a nessuno, nemmeno a chi mi scrive. Ma chi se ne fotte dei disabili, mi scrive Fabio Pizzini da Varese. Un altro mi scrive: signore, molto coraggioso, abbiamo potuto richiamare e non risponde al telefono. Se ha le palle di ripetere quello che mi ha scritto in diretta, la stiamo chiamando. Non sei capace a parlare di disabili senza puntare sul pietismo. Io pietismo, quando mai? Te ne sei mai accorto, Nicoletti? Ogni volta sembra che devi far uscire la lacrimuccia alla gente. Ma forse ha ascoltato qualcun altro. Vorrei più oggettività da un giornalista. Nessuno dice che io, in quanto giornalista, debbo essere oggettivo su questi temi. Sono temi che conosco e che mi tocca. Non mi va di essere oggettivo. Sono indignato per l'indifferenza di fronte a questo caso di Frascati. Poi gli umori ci penserà la gente che ascolta. Se gli umori sono come quelli di questo signore, onestamente, registrarli non è poi che mi interessi molto. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, salve. Sì. Pronto? Sì, la sto ascoltando. No, io invece la penso esattamente come lei, anzi sarei anche un po' più cattivo, perché è una bambina di 6 anni che ha qualche problema di motricità e di logopedia abbastanza grave, e se penso che probabilmente dovrò subire nei prossimi anni, quando andrà al liceo, diciamo questa cattiveria da parte di 15 persone nei confronti di 65 disabili che non hanno scelto di certo loro questa condizione, io mi arrabbio tantissimo con chi gli permette tutto ciò, perché c'è una legge, ci sarà una legge, e io invece userei, non dico la forza, ma non possono essere certo ostaggi 65 creature di 15, stiamo parlando di 15 scalmanati. Vabbè, adesso non entriamo in merito, le leggo qualche messaggio. Mi scrive un ascoltatore: evidentemente è scadente il progetto scolastico di integrazione e socializzazione e se i compagni normali non recepiscono nulla. Sauro da Ferrara, trovo sacrosanto quello che dice. In realtà è la scuola che doveva dare gli strumenti culturali a questi 15 per capire che esistevano anche altri 65 all'interno di quella bella scuola, che magari avevano come esperienza importante di vita anche loro interesse a conoscere meglio. Un altro ascoltatore: faccio il docente al liceo Roiti di Ferrara. Quando c'è l'occupazione ho l'obbligo comunque di essere a scuola. Se si chiude a chiave si chiamano i carabinieri. È vero. Se l'occupazione si chiamano i carabinieri, è vero. Mauro, buongiorno. Ah, buongiorno, mi scusi. Buondì. Solo una banalità, è chiaro, ha già risposto lei. Però sarebbe stato molto bello sapere da quei ragazzi che hanno occupato il perché di quella posizione, anche perché poi questi stessi... Sì, ci ho provato in tutta nera, mi dice come li rintraccio, stanno chiusi dentro barricati. No, stavo dicendo, anche perché questi ragazzi sono gli stessi che poi, quando non occupano la scuola, hanno questi loro colleghi, questi loro compagni purtroppo disabili in classe. Quindi come fanno a vivere questo doppio rapporto? È una domanda. È una cosa che vorrei capire anche con chi lavora all'interno della scuola. Martina Ciccarelli, buongiorno. Buongiorno Gianluca. È un'educatrice, lavora come assistente specialistica per ragazzi disabili. Conosce questa realtà di Frascati? Sì, io lavoro da poco in questa scuola, soltanto da un paio di mesi, ma ieri appunto mi trovavo presente durante il momento di occupazione. Siamo arrivati a scuola, abbiamo trovato tutta la scuola bloccata dall'interno e ovviamente ci siamo subito preoccupati di accogliere i ragazzi appunto con difficoltà. 65 cercando... è un bel numero, è un piccolo plotoncino di ragazzi. Fortunatamente alcuni ragazzi sono impegnati attualmente nei tirocini per quanto riguarda l'indirizzo enogastronomico, quindi erano diciamo protetti, come tanti altri ragazzi normodotati, sia normodotati che ragazzi disabili, sono comunque impegnati nei tirocini. Perché i tirocini sono fuori diciamo del perimetro occupato, ecco. Esattamente, si trovano nei ristoranti eccetera, quindi noi ci siamo premuniti di accogliere i ragazzi che invece erano venuti per frequentare le lezioni. E la prima cosa che abbiamo tentato di fare è stato di cercare un dialogo con i ragazzi che si erano barricati all'interno della scuola, dialogo che ci è stato pressoché negato, soprattutto nel momento in cui con una nostra ragazza che seguiamo, che è impossibilitata a camminare, abbiamo appunto chiesto ai ragazzi se loro avessero chiesto a questa ragazza se lei era d'accordo con l'occupazione. Di fronte a questa immagine, a questa situazione, i ragazzi hanno chiuso la finestra e ci hanno appunto negato il dialogo e soprattutto hanno negato a questa ragazza la possibilità di scelta proprio rispetto alla possibilità. Ma è vero di che vi hanno chiesto una specie di liberatoria, suonate fare entrare i disabili, dicendo vi prendete voi la responsabilità perché entrano i ragazzi o non entrano diciamo i loro assistenti? Esattamente, noi abbiamo chiesto di farci entrare insieme a loro perché sono dei ragazzi che inevitabilmente hanno bisogno di noi anche per spostarci, come hai detto tu prima, basta pensare a un ragazzo sulla sedia a rotelle e come chiedergli di entrare con le proprie gambe. E loro hanno detto voi ci fermate una liberatoria di responsabilità perché loro la responsabilità non se la sarebbero assunta, ma noi non ci facciamo entrare. Ma automaticamente... la fermata chi dà liberatoria? Quale ente giuridico è un ragazzo occupante per chiedere una liberatoria? In nome di cosa? Ma è un paradosso. Esatto, esattamente, non sanno nemmeno loro di cosa parlano. Cosa rappresenta un occupante per avere una liberatoria? Cosa ci fa con una liberatoria? Se l'attacca al muro, cosa ci fa? Ma è assurda questa cosa. Esatto. All'interno della scuola cosa sta accadendo? È vero c'è stata un'occupazione precedente 3 settimane fa, con state devastazioni anche degli apparati utili ai disabili? Esatto, è stato molto difficoltoso per noi gestire la situazione con i ragazzi perché è stato rotto il lettino e il sollevatore per il cambio dei ragazzi impossibilitati all'attività motoria. Quindi abbiamo dovuto contattare le famiglie, chiedere di utilizzare degli ausili diversi dalla possibilità di utilizzare un sollevatore, tra l'altro da quello che so portato anche da poco, consegnato da poco alla scuola. Ma la scuola ha denunciato l'atto di distruggere un sollevatore e un lettino per cambiare un disabile. Quindi presidio indispensabile alla vita quotidiana. Averlo distrutto è un reato penale. Sono stati denunciati questi ragazzi? Credo di sì, spero di sì. Non sappiamo nulla, poi noi poniamo domande, qualcuno poi se vuole ci risponderà. Resta in ascolto Martina Ciccale. Chiara Ludovisi, buongiorno. Buongiorno. Chiara Ludovisi è una redattrice di Redattore Sociale, che è appunto l'agenzia che si occupa in Italia di problemi sociali, ha trattato varie volte, in vari anni, questi problemi. Ci fai un quadro, Chiara, di quando episodi simili sono accaduti in altre parti d'Italia e poi anche questa vicenda, tu hai seguito professionalmente, se hai qualcosa da aggiungere a quello che abbiamo già detto. Sì, dunque, il caso del mostro Pantaleoni oggi lo stiamo prendendo un po' come pretesto, perché in realtà la situazione delle occupazioni scolastiche si ripete ogni anno ed è sempre la stessa la condizione che vivono gli studenti con disabilità. Noi ce ne siamo accorti per la prima volta nel 2013, quando abbiamo raccontato il primo di questi casi segnalato da Fabiana Gianni, che è una mamma, che raccontava proprio quello che era accaduto a sua figlia. L'abbiamo al telefono, tra un po' la sentiamo. Esatto, quindi questo è stato il primo caso e mi aveva colpito il modo in cui Fabiana aveva raccontato concretamente cosa significa un'occupazione scolastica per un ragazzo disabile, con tutti i problemi anche logistici che questo comporta. Un dettaglio che mi veniva in mente adesso, che non è stato raccontato, è quello dei pulmini. Molti di questi ragazzi raggiungono la scuola con i pulmini e quindi arrivando i pulmini davanti a una scuola occupata e il cancello chiuso non possono far scendere i ragazzi, quindi banalmente i ragazzi disabili restano quasi prigionieri di questo pulmino in attesa che la situazione si chiarisca o si risolva. E questa situazione poi si è ripetuta l'anno scorso, di solito il periodo è più o meno questo, insomma intorno a novembre-dicembre ci sono occupazioni più lunghe o più brevi. E quando si tratta di occupazione, quello che accade è questo, cioè non vengono fatti entrare gli insegnanti di sostegno ma cosa da sottolineare, non vengono fatti entrare neanche gli operatori. Ricordiamo che gli operatori sono spesso giovani, sono spesso precari, sono spesso persone pagate a giornata, poi se non entrano laureate che vengono pagate a giornata, non entrano, non prendono nemmeno lo stipendio, non entrano, non prendono stipendio magari anche per 3 settimane se l'occupazione tanto dura, però sono le persone tramite le quali questi ragazzi invece potrebbero tranquillamente entrare e svolgere la loro attività insieme ai compagni, che sia di occupazione, che sia di laboratori o di quello che in quel giorno viene previsto all'interno della scuola. Ma ti risulta chiara che mai in Italia qualcuno dal punto di vista delle istituzioni, dei ministeri, abbia preso una posizione rispetto, visto che si parla tanto di buona scuola, di inclusione, di sensibilità verso la disabilità, di giornate? 3 giorni fa erano tutti a scodinzolare alla Camera per la giornata della disabilità, a farsi belli davanti alle istituzioni. Abbia mai posto il problema che sì, possono essere discutibili o lecite, o è un argomento da cui trattare l'occupazione scolastica, ma che comunque disabili inclusi, visto che sono stati tanto bravi a fare una legge sull'inclusione, durante le occupazioni se ne stiano a casa? No, non mi risulta che ci siano stati interventi istituzionali su questo. Diciamo che nei confronti delle occupazioni in generale c'è un atteggiamento ormai, credo, di una certa tolleranza, cioè si aspetta che passino come il virus stagionale. No, al Virgilio in questo momento c'è una grande assemblea, c'è un sacco di persone importanti, visto che ci sono pressioni perché la questione del Virgilio si risolva, ma è una scuola dove ci vanno illustri rappresentanti. La cosa che mi ha colpito seguendo questi dati è che le soluzioni si cercano dal basso, come al solito, cioè sono piuttosto le famiglie insieme alle scuole e tutt'al più con il comune a cercare Fabiana Gianni le chiamava dei piani d'emergenza, cioè cosa facciamo fare a questi ragazzi disabili se la scuola resta per loro inaccessibile. Resta un attimo in ascolto, visto che ce l'abbiamo in collegamento. Fabiana Gianni, buongiorno. Pronto? Sì, mi sente? Sì. È madre di una bambina disabile, ha un blog sul Fatto Quotidiano e si occupa di questi problemi, quindi conosce meglio di noi. In questo caso, come diceva Chiara Ludovisi, esiste l'idea di doversi inventare qualcosa da parte delle famiglie? Allora, l'idea di doversi inventare qualcosa da parte delle famiglie è quotidiana, nelle scuole superiori in particolare, perché ci sono tutta una serie di problematiche. Quella dell'occupazione è la principale, perché crea... No, scusa, devo dirlo, perché un cretino ha scritto «Sono comunisti come lei, caro Nicoletti», solo per dire il livello di percezione generale. Prego, prego, vada avanti. Allora, il livello di percezione generale è il seguente. I genitori dei figli disabili cercano il parcheggio. Allora, io partirei da qui, perché se il sentire comune è quello che i disabili vanno a scuola per essere parcheggiati, c'è qualcosa già a monte che bisognerebbe forse ritoccare. Questo è un primo punto. Il secondo punto è il piano d'emergenza. Prima si parlava delle autorità, del ministero. Io ho scritto a tutti, non ho avuto nessun riscontro. Ho scritto al ministero, ho scritto al ministro, ho scritto poi a scendere man mano per settore, confidando con fiducia nella risposta di qualcuno. Ho ricevuto solo un'unica risposta dove mi si dice che è una prassi consolidata e quindi va tollerata, che è a capo dei dirigenti scolastici preservare un'aula, una zona dove creare il ghetto dei poveri disgraziati parcheggiati. Fermo un attimo, dare la linea, un attimo un'informazione del traffico, prendi fiato, riprendi fra un po', visto che il problema non è stato mai ufficialmente preso per le corna, lo facciamo noi questa mattina. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta Melog, Cronache Meridiane. .800240024 abbiamo preso come caso emblematico quello dell'istituto Maffeo Pantaleoni di Frascati, istituto con indirizzo sociale, istituto a cui interno ci sono degli ottimi programmi di abilitazione, di inclusione, di avviamento al lavoro per ragazzi con bisogni educativi speciali. Però paradossalmente questo è un liceo che è occupato, e quando accade che il liceo sia occupato, i ragazzi naturalmente non hanno modo di continuare le loro attività. Abbiamo sentito genitori, abbiamo sentito persone addette ragazzi, abbiamo al telefono la professoressa Elisabetta Truili. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Che è la referente per i bisogni educativi speciali dell'Istituto Maffeo Pantaleoni, quindi lei è proprio la cerniera importante, sì, in questo momento. Qual è il suo punto di vista rispetto a questa situazione? Allora, noi purtroppo ci troviamo in una situazione veramente di emergenza, in quanto la scuola è occupata da poche persone che si sono naturalmente presi possesso del nostro edificio, e questo naturalmente causa non solo disagi per tutti gli alunni, ma anche naturalmente per i nostri alunni davvero speciali. Ma lei trova che sia ineluttabile questa occupazione con i catenacci, con 65 disabili a piedi? Certamente non solo è un disagio per tutti noi che siamo al freddo al gelo, ma soprattutto per loro che continuano a venire a scuola con le loro, diciamo, con il disagio che gli viene arrecato. Ecco, ma voi, voi del corpo insegnante, cosa fate in questi giorni? Ecco, guardi, io mi sono attivata e ringrazio naturalmente il dirigente scolastico e grazie anche alla cooperativa Arcobaleno di Frascati che ci ospita, e quindi naturalmente io non li voglio lasciare a casa, assolutamente. Avete trovato una situazione tampone, d'emergenza? Di emergenza, e loro continuano a venire qui a lavorare e soprattutto, diciamo, a sorridere insieme a noi. Ma le sembra corretto che 15 persone però condizionino un apparato, il suo lavoro? Sono anche soldi, perché sono cose che poi costano fare queste cose. Perfetto, certamente no, è veramente, diciamo, però non ci fermiamo, abbiamo chiamato ovviamente le forze dell'ordine. Qualcuno ha chiesto alle forze dell'ordine di sgombrare la scuola, come sarebbe certamente, normale? Certamente, e cosa è accaduto? Siamo in lotta, niente, siamo fermi perché ci sono delle procedure burocratiche probabilmente da seguire, e quindi per il momento ancora mi auguro che prima possibile, anche perché abbiamo sì una sistemazione ma di emergenza, e loro vogliono comunque partecipare e non può essere privato. Qualcuno ha denunciato, professoressa, l'episodio precedente 3 settimane fa, quando sono stati... Sì, abbiamo il dirigente scolastico attento naturalmente, anche molto dispiaciuto, perché insomma abbiamo avuto dei danni, anche dei danni alle strutture dei disabili, il sollevatore e il lettino. Quindi, sì, lo hanno detto prima. Ma i genitori di questi ragazzi occupanti hanno parte in tutto questo? Prendono posizione? Guardi, il dirigente sta facendo di tutto, però... Sembra che insomma anche questa mattina pochi genitori erano comunque, o perché non si informano o perché non seguono i propri figli, non lo sappiamo, però insomma abbiamo una situazione un po' di emergenza. Da questa mattina il vostro caso è diventato un caso nazionale, ne abbiamo parlato in tutta Italia, ancora non l'aveva fatto nessuno, non che ci vogliamo far belli di questi, quindi oggi il mondo sa, ministero compreso, perché sono in ascolto, lo avvertite che esiste questa situazione. Adesso l'interessante è capire quale sarà il passo successivo. Si sa almeno il motivo per cui occupano? Questa è la domanda. Diciamo, purtroppo non ci sono motivi neanche, diciamo, politici, niente. Qualcuno così farfugliava dalla finestra per una buona scuola, ma non si capisce proprio. Quindi non c'è un documento che dice occupiamo per questa ragione? No. Perché ho visto uno striscione, niente. Il Maffeo non scende a compromessi. Sì, ma non è perché dicevano che insomma volevano una settimana degli studenti, autogestione. Noi avevamo addirittura, dopo il primo episodio, anche attuato un dialogo con tutti loro, però insomma sembra che evidentemente sono poche teste calde che riescono, diciamo, a mettere in ginocchio un sistema. Questa è la più amara presa di considerazione che devo fare. Parla una professoressa, di quelle brave, perché quelle che mi sembra che abbiano fortemente a cuore quello che è il loro compito istituzionale, che si occupa dei bisogni educativi di questi ragazzi, sono 65, non sono assolutamente pochi, che alza le braccia e dice non possiamo farci nulla. In questo momento i padroni della scuola e della felicità di questi ragazzi, non lo dico per instigare la lacrima come dicono alcuni ascoltatori, ma perché è una realtà, sono 65 ragazzi che hanno un diritto e hanno un bisogno maggiore rispetto a quello degli altri. Fabiana Gianni, sì. Vorrei sapere se hai qualcosa da commentare e da aggiungere per dare un po' di respiro. Io volevo commentare che 65 alunni del Maffeo non sono ancora l'apice, perché ci sono istituti di istruzione superiore con diverse sedi che superano i 100 alunni con disabilità qui a Roma, e mia figlia fa parte di uno di questi, quindi purtroppo il numero... Non dacci dei numeri, siamo qua per capire meglio, per avere una situazione. I numeri sono molto alti, i numeri sono importanti, ripeto, perché l'istituto di istruzione superiore con anche le ultime riforme ha vissuto degli accorpamenti, quindi in realtà su 5, 6, 7 plessi si arriva a toccare il centinaio di alunni con disabilità. E volevo sottolineare una cosa che diceva prima Chiara Ludovisi sul fatto del pulmino, e questo questo è un fatto gravissimo, perché i ragazzi che rimangono sul pulmino, purtroppo non in attesa che la situazione si risolva, ma in attesa che i genitori scorrano lasciando il lavoro a recuperarli, a prenderli in qualche maniera, spesso con il disagio di non avere la macchina attrezzata e quindi con dei problemi enormi da affrontare, e in realtà sono vittime di una discriminazione totale, paralizzante, che comporta poi la necessità di interventi di riabilitazione creati ad hoc sul trauma che vivono e che subiscono. Visto che questo è l'argomento che cui gli italiani sono molto più sensibili, tutto questo significa soldi pubblici che poi vanno spesi in una direzione quando potrebbero essere spesi meglio. La giornata di un genitore con un ragazzo disabile che sta in carrozzella è un insieme di incastri. Se l'incastro non funziona, va in tilt tutto il sistema, va in tilt la serenità comunque del ragazzo. Bruno, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Volevo raccontare una storia confortante, diciamo. Mio figlio, che adesso ha 33 anni, ha avuto nella scuola superiore con lui un disabile grave, che è stato per tutta la sua classe, per i 5 anni delle superiori, il motore delle loro proteste, cioè loro facevano sciopero perché... Diciamo che beh, questo è un fatto positivo, una volta tanto una cosa ha funzionato, però sa, non è che far vedere i santini ci risolve il problema, mi sembra che il problema sia piuttosto cruciale. Non vorrei avere conferma alla fine di questa trasmissione che in realtà, al di là dei buoni propositi, delle prese di posizione ufficiali, delle giornate nazionali e internazionali, in realtà del disabile e delle sue famiglie, ancora una volta, non importi niente a nessuno. Spero di essere smentito. Alla prossima.